1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, amici miei debosciati, ascoltatori nostri, ascoltatori di 24 mattino. Siamo pronti a leggere i giornali, debosciatelli, ovviamente sapete che è il mio urlo di battaglia per voi, amici che vi svegliate, magari ora siete un po' in ritardo, non come noi che ci svegliamo alle 5, dalle 6 e mezza siamo in diretta, voi magari vi siete aggiunti... Alino, il ecco. Primo debosciato sei tu! Questo ovviamente è chiaro, è risaputo ed è noto. Ma dai, forza, i giornali! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, mercoledì 20 aprile, siamo coi titoli. Il Sole 24 Ore apre tetto ai titoli di Stato, no di Roma e Parigi. Il pressing tedesco per limitare i bond pubblici in portafoglio alle banche in cambio del sia la garanzia unica sui depositi. E quindi tema banche è l'apertura del Sole 24 Ore. E poi pensioni, attenzione, torna al tema pensioni flessibili non per tutti. Questo è il titolo del Corriere della Sera di apertura. Per Repubblica, INPS, per i giovani allarme pensioni e Renzi attacca i PM. Repubblica mette le due notizie principali della giornata insieme. Il Messaggero, pensioni, flessibilità su misura. Mentre Libero, banche, pensioni, altre sorprese. Per il Giornale, terrorismo sulle pensioni. L'ipotesi di lavoro fino a 75 anni per chi è della classe 1980. Pensioni, rischio giovani è il titolo anche del Giorno. Mentre sui migranti, apre la Stampa, migranti e populismo, così l'Unione Europea rischia l'effetto paralisi. E anche Avvenire, migranti un dono, è l'appello del Papa. Per il Fatto Quotidiano invece c'è Renzi come Berlusconi, 25 anni di barbarie giustizialista, e la risposta con un'intervista del Fatto di Marco Travaglio al nuovo presidente dell'ANM Davigo, i politici non cacciano le mele marce. È interessante questa intervista a Davigo che vedremo più avanti. Prima voglio partire dall'apertura del Secolo XIX. A me strazia il cuore vedere queste foto che circolano e che vengono dal Polcevera, dal torrente in Liguria, dove una marea, insomma una quantità non indifferente di petrolio è stato sversato dall'azienda Iplom. Perché queste foto sono soprattutto foto di uccelli, di pesci morti, di uccelli ricoperti di nero, di piume nere. E il titolo è La paura della piena, a parte la questione di cronaca, ovviamente, come racconta il Secolo XIX, con il presidente della regione Toti, che emerge ieri alle 8 da una riunione della prefettura di Genova a fare il punto sul disastro ambientale del Polcevera. Ma proprio mi colpisce l'articolo di pagina 3, Riccardo Porcù, corredato appunto da queste immagini dal disastro, come si legge dal Secolo XIX, foto di pesci morti, e il titolo: sul torrente si è spento il gracidio delle rane. Germani reali, oche, aironi con le ali impastate dal greggio. E tra il fogliame abbattuto della marea nera di petrolio domina il silenzio. Il sottofondo abituale delle rane non c'è più, così come il futuro fatto di girini, appena nati e trascinati via. E sul percorso dell'onda di greggio che domenica ha stravolto l'ecosistema del Polcevera fino a sfiorare il mare, ora ci sono decine di volontari animalisti, binocoli in mano, mascherine pronte, strumenti indispensabili per intervenire per tempo. L'odore di greggio entra nelle narici e non se ne va. Miasmi respirati dalle oche, dai germani reali, scappati in fretta lontano verso il Polcevera. Per alcuni non abbastanza, trovati dai vigili del fuoco, dalla protezione civile, i superstiti vengono avvistati sempre più di rado dai binocoli dei volontari. Tentano di spiegare le ali e alzarsi oltre la marea nera, ma il greggio è troppo pesante, li trattiene a terra. E qui dunque subentrano i volontari, gli animalisti, l'EMPA, la LAV, le guardie zoofile, ma anche tanti cittadini comuni pronti, dopo aver visto le foto, le immagini della Marea Nera, a dare una mano, per esempio, pulendo le piume degli uccelli. E anche l'apertura del Manifesto, che mette in prima pagina questa foto sempre di un germano reale con le piume tutte colorate di nero, l'oro nero, questo è il titolo di prima pagina. Beh, ve la segnalo, vi segnalo anche l'intervista al sindaco di Genova, sempre sul Manifesto. Marco Doria, intervistato: subito il piano di bonifica, i soggetti privati che saranno individuati come responsabili del danno ovviamente pagheranno, ripareranno loro e pagheranno. Riguarda i tempi della bonifica, che tempi avrà, dice al Manifesto a Daniela Preziosi, il sindaco di Genova. Beh, non posso saperlo, dopo che quella che tecnicamente si definisce messa in sicurezza, quindi alla prima esportazione dei grumi di petrolio, si passa alla bonifica, ma deve essere scientificamente tutto impostato. Insomma, non ci sono i tempi di quanto durerà questa bonifica del Polcevera. Mentre, scusate, io ripeto, non voglio sottovalutare l'allarme terrorismo, non va sottovalutato, però sinceramente così, l'allarme lanciato da Bild Zeitung, che, come racconta Roberto Giardina sul Giorno, vende 2 milioni e mezzo di copie a 13 milioni di lettori, quindi il giornale più diffuso in Europa, e che ieri, giornale tedesco, ha titolato: attenzione, c'è l'allarme di kamikaze sulle spiagge italiane che si travestiranno da Vukumpra, giusto per usare un termine che tutti capiscono. Basta. Adesso io, per carità, non voglio sminuire l'allarme terroristico, tra l'altro attentati nelle spiagge non italiane ce ne sono stati, come in Tunisia, quindi non va sminuito neanche questo rischio. Però insomma, l'allarme trabocchetto della Bild: kamikaze sulle spiagge italiane. La Bild cita una non precisata fonte della polizia senegalese, sapete che molti di coloro che vendono sulla spiaggia sono proprio senegalesi, in generale la maggior parte, lancia questo allarme. Attenzione, c'è il gruppo Boko Haram, molto attivo in Nigeria ma anche in Senegal, che agisce in stretto contatto con l'ISIS e avrebbe promesso di far infiltrare con le loro false borse, le loro false merci, le loro false... anche dei kamikaze nelle spiagge italiane. Oh, l'allarme c'è, il Giorno dedica due pagine raccontando anche la furia di Roma, del Ministero dell'Interno. Così la Germania vuole fare danni al turismo per gli 007 italiani, la notizia è infondata. Immaginate, insomma, molti tedeschi che leggono questa notizia e che abitualmente ogni anno vengono nelle nostre spiagge italiane, dopo aver letto questo tipo di allarme dicono: oh, ma è il caso di venire nelle spiagge, di andare nelle spiagge italiane quest'estate? Sta di fatto che anche il giornale: i jihadisti in spiaggia spaventano i turisti ma non turbano Alfano, il Viminale, insomma il Ministero dell'Interno non considera la minaccia concreta, come invece dice la Bild. Questo è quello che succede nel confronto Germania-Italia, forse puntata nuova Germania versus Italia, chi lo sa. Intanto, signori, vi segnalo questo da Repubblica: torna dopo 46 anni Rischia Tutto, lo sapete, Fabio Fazio farà Rischia Tutto, e allora Repubblica intervista la signora Longari, lei, la mitica, alla quale vale una sola domanda su tutte, lo sapete, quelli che hanno una certa età se la ricordano, quelli che sono cresciuti come me, che non se l'hanno vista in diretta, sono cresciuti con questo mito. Ai ai ai, signora Longari, mi è caduta sull'uccello. Frase che Mike Bongiorno in realtà non ha mai pronunciato, come la stessa signora Longari, intervistata oggi da Repubblica da Silvia Fumarola, pagina 45, Giuliana Longari, eccola qua, dice: non è vero, ma non è vero niente, è una leggenda metropolitana, se la inventò lui, Mike Bongiorno. In Rai quel doppio senso non era consentito, il programma peraltro era registrato, sarebbe stato tagliato. Ho controllato ogni puntata e Mike non fece mai quella gaffe. Eppure è passata la storia, è incredibile, vero? La frase non è mai stata detta. Ho lavorato tanti anni anche alle teche Rai e le povere ragazze a cui gli autori regolarmente chiedevano di cercare quella frase impazzivano. E io alle più gentili dicevo subito: è inutile che perdiate tempo, quella frase non esiste. E dunque, insomma, in maniera definitiva, anche se l'aveva detto già, credo, altre volte, la signora Longari, che tornerà a Rischia Tutto, dice: quella frase non è mai esistita. Ai ai ai, signora Longari. Vabbè, allora, ma veniamo al premio per l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da mani sul volante. E appoggiate tutto ciò che avete di bollente in questo momento nelle vostre lunghe colazioni, perché Gian Antonio Stella deve raccontare che ancora una volta, al di là del merito, delle frasi vuote, inutili, sterili sul merito, quando io sento parlare di meritocrazia in Italia mi viene da imbracciare un Kalashnikov che non ho, per la falsità di queste frasi stupide, quei dirigenti di Palazzo Chigi ancora tutti virtuosi e premiati. Gian Antonio Stella racconta della svolta meritocratica nella pubblica amministrazione. I premiati col massimo dei voti calano all'89%. Calano, non è un'esagerazione. Ebbene sì, a Palazzo Chigi succede che i dirigenti che prima prendevano il bonus premio, prima al 100% di loro, poi al 97,7% di loro, c'erano alcuni che non lo meritavano, si parla di un premio di 13.622 euro all'anno per stipendi medi già di 203.000 euro l'anno, ora sono un po' calati e solo l'89% di loro, ultimo dato del 2014, prende il premio produttività a fine anno, come se in un liceo l'89% degli studenti prendesse la maturità a 100 centesimi, come se alle prove di abilitazione per l'ordine degli avvocati l'89% fosse promosso col massimo dei voti, come se l'89% degli aspiranti chirurghi fosse laureato con 110 lode, bacio accademico e pubblicazione. Possibile? Si chiede Gian Antonio Stella. A Palazzo Chigi è possibile. A Palazzo Chigi è possibile, possibile. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, la ruspa dell'informazione. Brum, brum, brum. Va bene, va bene. Cari ascoltatori, mandate le vostre sigle al 349-238-6666. Questo è il numero WhatsApp per vederle pubblicate in onda da noi. Allora, dobbiamo parlare di quello che è successo ieri, non tanto la mozione di sfiducia al Senato con Renzi che ha ascoltato un paio di ore di accuse e poi ha risposto lui con altrettante accuse. Non è tanto la questione politica in sé, la mozione di sfiducia è stata respinta. Quello che mi ha colpito certamente è che cosa? L'attacco di Renzi contro la barbarie giustizialista, tanto che ovviamente dà il là ad alcuni giornali come il Fatto Quotidiano a dire: Renzi come Berlusconi attacca 25 anni di barbarie giustizialista, di giustizialismo a senso unico per Renzi, quello che condanna prima ancora di una sentenza definitiva. Subito appoggiato da Giorgio Napolitano, in qualche modo questo asse già anche con il referendum si è visto, si cementa. Giorgio Napolitano, ex presidente, ha detto: vengono pubblicate intercettazioni manipolate, è successo al mio consigliere Loris D'Ambrosio che ci ha rimesso la pelle con un attacco cardiaco, io certe cose non le dimentico. Insomma, è un Renzi che attacca tutto tondo, intanto attacca politicamente e, come si legge nel retroscena di Maria Teresa Meli, il senso del suo intervento è questo: volevo dire soprattutto ai dirigenti del Movimento 5 Stelle che loro e i talk show non sono niente, nel senso che non incidono sulla realtà del paese. Così ancora Renzi, tra l'altro, attacca nuovamente i talk show e la TV. Pare, secondo la stampa, che ha visto qualche talk show dopo il referendum e abbia commentato: ma è incredibile, sembra che abbiamo perso noi invece che aver vinto. questo dopo il referendum. Ma soprattutto appunto questo attacco al giustizialismo che lancia questa nuova ondata di polemiche. Secondo Fabio Martini sulla Stampa, pagina 7, Renzi fa così perché vede un'offensiva mediatico-giudiziaria nei confronti del governo. Talk, media e social non sono l'Italia. Ecco le ragioni dell'invettiva, con molti che gli dicono, come una senatrice grillina, hai paura, eh? E Renzi, che gioca d'anticipo, sa forse di qualche novità in arrivo da qualche procura? Chiede la Stampa. Difficile addentrarsi in dietrologie che non possono trovare conferma. Una cosa è certa, Renzi voleva dire quelle frasi così forti e non è stato certo preso dal pathos dell'aula, tra l'altro un pathos che non c'era, visto che sino a quel momento il pacatissimo Presidente del Consiglio aveva parlato nel silenzio rispettoso di tutta l'aula. E allora, questo attacco al giustizialismo. Oggi c'è un'intervista molto interessante che Marco Travaglio fa al nuovo presidente dell'ANM, Piercamillo Davigo, ex magistrato di Mani Pulite, pagina 2-3 del Fatto Quotidiano. Dice tante cose interessanti Davigo, ne dico alcune. Intanto dice: non c'è alcuna guerra tra noi e la politica, noi facciamo indagini e processi. Se poi le persone coinvolte in base a prove e indizi che dovrebbero indurre la politica e istituzioni a rimuoverle in base a un giudizio morale vengono lasciate o ricandidate o rinominate, è inevitabile che i processi abbiano effetti politici. E poi le frizioni tra poteri dello Stato sono naturale conseguenza della loro separatezza e indipendenza. Chi vuole che tutti i poteri vadano d'amore e d'accordo vorrebbe la monarchia assoluta. È questo che vogliono? Dice Davigo al Fatto Quotidiano. E ancora, la riforma delle intercettazioni non vedo la necessità, basta, e avanzano le norme sulla diffamazione e la privacy, che puniscono chi mette in piazza fatti davvero privati e privi di interesse pubblico. E qui Davigo fa un esempio molto forte, che è questo. E poi, a proposito di irrilevanza, ma lo sanno che ciò che è irrilevante per un PM o il giudice può essere rilevantissimo per l'avvocato difensore? Faccio un esempio. Tizio, intercettato, racconta una serata con un trans. Tutti dicono orrore, privacy, bruciare tutto. Già, e se poi quella serata con il trans serve a uno degli interlocutori come alibi per provare che la sera di un delitto erano altrove? Insomma, fa questo esempio estremo Davigo. E ancora, la presunzione di innocenza è un fatto interno al processo, non bisogna aspettare la Cassazione. Ha presente il professore universitario che faceva sesso con le allieve? E sempre prima degli esami, mai dopo, il che esclude che fossero innamorate di lui? Lo hanno assolto e il preside lo vuole di nuovo in cattedra, come se un fatto penalmente irrilevante non fosse deontologicamente disdicevole. Ecco, i politici ragionano così. Dovrebbero smetterla di delegare ai magistrati la selezione delle classi dirigenti e poi lamentarsi pure. Dicono aspettiamo le sentenze, poi se arriva la condanna strillano. Ma se il mio vicino di casa è rinviato a giudizio per pedofilia, io mia figlia di 6 anni non gliela affido quando vado a fare la spesa. Poi se verrà scagionato, si vedrà. La giustizia è una virtù cardinale, ma anche la prudenza. Avete capito, Davigo? Se uno è rinviato a giudizio per pedofilia, io intanto per prudenza non gli do la figlia, cioè lo considero già colpevole di fatto. Per prudenza. Non lo considero colpevole, no, però per prudenza non gli affido la figlia. Poi se verrà scagionato, chissà, intanto il marchio indelebile ci sarà. Comunque, così Davigo è in questo confronto che si è riacceso sul tema della barbarie giustizialista. C'è anche un altro confronto che riguarda quelli del Movimento 5 Stelle e sui quali gli altri partiti stanno facendo molta polemica, cioè il fatto che l'assessore al bilancio della Giunta 5 Stelle di Livorno, Gianni Lemmetti, abbia ricevuto un avviso di garanzia in merito all'indagine sui rifiuti. E anche Virginia Raggi, candidata a sindaco a Roma del Movimento 5 Stelle, non... non parla, oppure le chiedono, io caccerei un assessore che riceve un avviso di garanzia, valutiamo caso per caso. La domanda è generica, bisogna capire per cosa. Ecco dunque l'attacco al Movimento 5 Stelle a dire, ma come? Voi non eravate quelli che basta un'indagine per mandar via? Raggi e il caso Movimento a Livorno, un avviso non basta per lasciare. Titolo di pagina 6 del Corriere della Sera, ovviamente il PD all'attacco per questo assessore indagato. Renzi dice, l'ha detto anche al Senato, noi non chiediamo le dimissioni. Sta di fatto che insomma c'è questo tipo di polemica politica. Eccolo qua, il barbaro, il giustizialista, l'uomo che mai forse arriverà alla pensione, ma certamente prima di quelli nati nel 1980 che dovranno lavorare fino a 75 anni, dice Boeri, e prima dovranno soprattutto trovare un posto di lavoro, se saranno in grado. Mauro Meazza, eccolo qua, il barbaro giustizialista, ti piace questo? Ma sì, va bene, ti inviterei alla prudenza, come consigliava il tale che leggevi prima. Ti inviterei alla prudenza e anche alla temperanza, guarda. Temperanza, volevo darti qualche segnalazione sulle contenuti del Sole 24 Ore di oggi, che sono molti, ma comincerei ricordandoti, prudenza, perché dal primo di maggio le dogane passano tutte a un procedimento telematico. Allora tu dirai, no, è una cosa parecchio importante che dovrebbe snellire anche la burocrazia. Noi per festeggiare, scherzo, per segnalare come funzionerà il tutto, oggi con il Sole 24 Ore diamo un focus di 16 pagine in aggiunta appunto al quotidiano. Mi raccomando, caro Milan, prudenza, soprattutto prudenza anche sulle banche. Hai visto che il decreto delle banche, scriviamo oggi sul Sole, è stato rinviato settimana prossima. Prudenza, forse anche lì abbiamo deciso per la prudenza. E intanto c'è questo scontro di cui hai riferito dal nostro titolo principale, perché insomma su questa garanzia unica per i depositi delle banche di tutta Europa non ci si mette proprio d'accordo. Adesso c'è anche questo problemuccio di capire come valutare i titoli di Stato. Vabbè, vedremo come proseguiranno le cose. Intanto ti voglio dire che il codice degli appalti, così come ti segnalavo ieri, sei stato attento? Sì, come no. Ecco, è andato in Gazzetta Ufficiale. Quindi, come ammoniamo oggi, fai attenzione non nelle pagine di norme e tributi, bensì in quelle di imprese e territori, non ti confondere. Ecco, come ammoniamo oggi, ci sono già delle normative che vanno da subito rispettate, ma te lo spieghiamo con dovizia di particolari. Non so se la dovizia è anche una virtù. Non è una virtù teologale. Ma va bene, erano cardinali però. Cardinali, no, invece la dovizia è quella di Alessandro Arona e Giuseppe Latour, che ti spiegano appunto nelle pagine di Imprese e Territori. Mi raccomando, con dovizia. Laddove invece troverai nelle pagine di Norme e Tributi questa esplosione, di cui diamo conto peraltro anche in prima pagina, delle addizionali regionali IRPEF. Che lì non c'è stata tanta prudenza, diciamo, perché abbiamo già una crescita del 17% mediamente. E poi ti voglio anche dire, tu che sei appassionato della questione dell'abolizione delle province, dunque gli enti di area vasta, che poi sarebbero le vecchie province, e le città metropolitane hanno sforato l'anno scorso il patto di stabilità per un miliarduccio circa, poco meno. Vabbè, te lo racconta con prudenza, ma anche con dovizia, Gianni Trovati, nelle pagine di Norme e Tributi. Ti faccio un'ultimissima segnalazione, perché devi leggere molto molto bene, anzi dillo tu l'avverbio, le pagine di Finanza e Mercati. Direi avidamente. Vabbè, oggi. Avidamente, le pagine di Finanza, perché? Perché ti spieghiamo, come già ti ammonivo ieri, che c'è stata questa offerta di bond argentini che sono andati sul mercato, è andata bene, 16,5 miliardi mi pare, ma anche l'offerta dei nostri BTP a 20 anni che pure è andata bene. E tutto questo viene raccontato con dovizia un'altra volta nelle pagine di Finanza, dove tra l'altro parliamo anche di una birra famosa che andrà in mani giapponesi, una birra italiana famosa che andrà in mani giapponesi. Ma mi raccomando, soprattutto prudenza, specialmente nel traffico. Alessandro Milan, lo scasso cucchione dall'informazione. Questo mi piace. Allora, cari ascoltatori, dicevo delle pensioni, ci sono molti articoli sulle pensioni, e come ci ha detto anche Mauro Meazza sul Sole 24 Ore, e mi mi ha colpito invece l'articolo editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. Sono Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, dunque due economisti, che raccontano quella che è per loro l'agenda per ripartire. L'agenda per ripartire, un lungo articolo che trovate poi sviluppato a pagina 24. Qual è l'agenda per ripartire? Beh, crescita, debito e stabilità finanziaria. Queste sono le tre ricette e i tre punti su cui agire, secondo Alesina e Giavazzi. Gran parte della nostra mancata crescita, scrivono, dipende dalla scomparsa di aumenti di produttività. A fronte di un settore manifatturiero in cui la produttività cresce anche più che in Francia e Germania, la nostra produttività nei servizi non solo non aumenta, scende, con cadute fino al 15% nel settore servizi professionali. Il motivo è semplice: poca concorrenza, che crea rendite fatte pagare a consumatori e imprese industriali che di quei servizi hanno bisogno. Ci vuole, insomma, ed è questa la prima ricetta, una botta di concorrenza. Secondo motivo, della dimensione delle nostre imprese, che sono troppo piccole. La produttività è tanto più bassa quanto più piccole sono le imprese. E poi sul debito, la strada da percorrere è chiara: ridurre subito le imposte sul lavoro per favorire la crescita del denominatore e iniziare un graduale processo di riduzione di spesa per fermare il numeratore, lo diciamo da tempo. E poi, per quanto riguarda la stabilità finanziaria, Governo e Banca Italia sembrano sottovalutare la gravità della situazione di alcune nostre banche. Questi sono i punti, secondo Alesina e Giavazzi, da sviluppare. Oh, poi c'è sempre il tema migranti. Il tema migranti, il Papa dice, i migranti sono un dono e non un peso. Tra l'altro, proprio ieri sono arrivati, c'è questa foto di questo barcone di cui vi parlavo ieri, che ha fatto il giro d'Italia, se non del mondo. Questa foto, vengono intervistati su Repubblica i superstiti, con soprattutto quei due che erano in punta al gommone e avevano un salvagente, e sono Osaman e Haemiad, 16 e 17 anni, cugini, stavano fuggendo dall'Etiopia, erano appunto sulla prua del gommone, due giovanissimi migranti seminudi abbarbicati con il salvagente. Loro dicono: abbiamo lavorato 2 mesi come animali per comprarci il salvagente, 12 ore al giorno in una cava, e così, grazie a quel salvagente, comunque al fatto che siamo riusciti a entrare, a mettersi sulla prua del gommone, ci siamo salvati. Raccontano dello sbarco, partiti dalla spiaggia libica di Zabratà in 135, dopo un po' il gommone che cade, che crolla, c'è una falla nel centro, gente che cade in mare, e insomma a 6 di loro non ce la fanno. È il racconto, Francesco Viviano, Alessandra Ziniti, lo fanno su Repubblica, pagina 9, il classico racconto di tante, tante traversate finite anche male. Alcune notizie per chiudere, siamo anche in diretta su Facebook e saluto tutti gli amici che mi stanno seguendo in diretta sul profilo personale mio di Facebook, sulla pagina pubblica di Facebook. Non chiedetemi l'amicizia al profilo personale, vi prego, mi costringete a non darvela, c'ho la pagina pubblica apposta, andate lì, dai, vi prego. Vabbè, comunque, altre notizie, dicevo, il Messaggero, scuola, il concorso nel caos, a una settimana dall'inizio non si trovano i commissari, forse anche perché guadagneranno 209 euro lordi più 50 centesimi, sempre lordi, per ogni prova scritta corretta. Insomma, si può arrivare al massimo a 2051 euro, più o meno. E allora c'è molta gente che dice: ma perché devo fare il commissario per 2051 euro? Allora il Messaggero dice che c'è la possibilità, lo racconta pagina 12, forse di raddoppiare le cifre, forse raddoppieranno le cifre al governo, in modo da incentivare un po' di commissari a fare, di persone a fare i commissari, chi lo sa. Intanto vi segnalo anche una pagina del Corriere della Sera, pagina 13, su questo terremoto dimenticato in Ecuador. Ci sono persone morte per un terremoto, ma nessuno ne parla, e il Corriere della Sera, a mio modo di vedere, in modo giusto, corretto, fa una pagina, pagina 13. Mentre, eccoci qua, ma certo, Siamo tutti pronti. Domani e il giorno ne parla per due pagine, è la carta costa, l'articolo più lungo e anche inutile a mio insindacabile giudizio dei giornali di oggi. Il giorno dedica due pagine sulla regina Elisabetta, che domani compie 90 anni. La corona come lavoro, i 90 anni dell'ultima icona d'Europa. Ma chi se ne frega!